si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, il nostro antidoto alle brutte notizie della settimana. Ci ritroviamo anche con la puntata della domenica a mezzogiorno su Radio 24, ancora per qualche settimana, poi da ottobre con il nuovo palinsesto di Radio 24 saremo da un'altra parte, probabilmente sempre il sabato e la domenica, ma alla mattina. Andiamo subito ad iniziare, anzi ricordiamo prima di tutto i nostri contatti su Facebook, Si può fare trattino Radio 24, su Twitter l'account del programma è Si può fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi. Andiamo ad iniziare con alcune segnalazioni, due segnalazioni di questa settimana. La prima ci porta a Parma, regala il tuo vecchio zaino e manda a scuola un bambino. Parte la campagna Tutti a scuola con lo zaino, fino a martedì 10 ottobre si può consegnare materiale scolastico nuovo o usato in buone condizioni per le famiglie colpite dalla crisi. Iniziative simili ce ne sono anche sicuramente in altre città italiane, postatecele sulla nostra pagina Facebook, sarà bello poterne fare pubblicità. Questa iniziativa di Parma è la Caritas, la provincia di Parma, ed è possibile andare a portare gli oggetti per la scuola all'Emporio Caritas, alla Casa del Giovane, alla Chiesa Avventista, al Circolo Aspi, Corpus Domini, Parrocchia San Pellegrino, Centro Aiuto alla Vita. Questo almeno per quanto riguarda Parma, ma ripeto, iniziative di solidarietà così ce ne sono in tante città, e allora segnalatecene, ne faremo pubblicità. Un'altra segnalazione viene da Grosseto, sarà che dopo la retrocessione in Serie B della squadra di calcio della Serie B della squadra del Grosseto, bisogna recuperare un po' la faccia. Fatto sta che la società offre a 100 disoccupati la possibilità di avere l'abbonamento per tutta la stagione calcistica gratis. Anche questa è una bella iniziativa, chissà se anche altrove, in altre città, altre squadre di calcio lo fanno. Segnalatecene e noi le racconteremo. Adesso iniziamo e andiamo nell'orto. Sono rimasto senza fiato quando mi sono ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito, nella vita il significato c'è, il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ritardato. È sempre più boom per quanto riguarda il fenomeno degli orti urbani. Possono servire per svago, per garantire una forma minima di manutenzione del territorio e dell'ambiente, ma anche come forma di sussistenza personale, familiare, per quanto riguarda frutta e ortaggi. A Bologna c'è un'iniziativa nuova, abbastanza importante. Il Centro Agroalimentare Bolognese ne regala ben 108 ad altrettanti aspiranti agricoltori urbani. Un'iniziativa che abbiamo chiamato a presentare al presidente del CAB di Bologna, Andrea Segre. Professor Segre, buongiorno, che ritroviamo con grande piacere. Professore? Eccomi. Eccoci qua. Allora, prima di tutto c'è un bando che si è aperto proprio ieri per l'assegnazione di questi 108 orti urbani, però prima di parlare di questo, che poi interessa anche gli ascoltatori naturalmente dal punto di vista pratico, ci spieghi un po' l'importanza di questo fenomeno degli orti urbani, che dicevamo possono servire anche per una forma di risparmio personale e familiare, ma fanno bene anche all'ambiente. Certamente, noi abbiamo un grande spazio, il mercato ortofrutticolo però sì, e su 70 ettari, il doppio del Vaticano, tanto per intenderci come superficie, e c'è anche una parte agricola. Allora abbiamo pensato di inserirci in questa tradizione, che è anche molto bolognese, dell'orto urbano, che però aveva uno scopo, diciamo, insomma, di passatempo, soprattutto per gli anziani. Infatti i giovani non si avvicinano perché non c'è più spazio. L'abbiamo ricavato dentro proprio l'area del centro agroalimentare, 108 sì, appezzamenti da 25 metri quadrati l'uno per i giovani, cioè il bando che abbiamo aperto ieri è per i giovani, studenti, famiglie con figli, che ecco, useranno torto anche per l'autosussistenza, perché abbiamo calcolato che producendo bene, e noi siamo lì vicino con la facoltà pronti a insegnare con dei docenti molto bravi, si possono arrivare a 180 chili l'anno, circa un risparmio di 600 euro, che non è poco. Ecco, quindi tutti questi chili l'anno possono, non so se bastare, se bastano a soddisfare i bisogni di una famiglia, ma insomma è già una cosa importante. Ma ci tolgo una curiosità, professor Segre, perché questi orti che noi spesso vediamo anche passando dalle strade, a Bologna in particolare ce ne sono molti, e sono associati anche all'immagine del pensionato che coltiva, però voi volete svecchiare questa cosa, ma dal punto di vista, insomma, dell'area cittadina, ecco, i prodotti che nascono in questi orti sono poi validi? Perché sappiamo che le città sono anche un po' inquinate, almeno per quanto riguarda l'aria. Anche questo è un po' il problema. Noi siamo un po' a ridosso, diremo così, del centro, quindi in un'area ancora periferica e tra l'altro molto verde, ma soprattutto insegneremo ai nostri giovani possessori dell'appezzamento le tecniche dell'agricoltura biologica, quindi certamente l'atmosfera, l'inquinamento incide, però il metodo di produzione diventa fondamentale, perché poi anche l'orto, diremmo così, dell'anziano poi non è che sia così controllato. Ma la cosa furba, anzi nuova se vogliamo, è che i prodotti fatti negli appezzamenti si possono scambiare. Noi abbiamo l'ASL dentro, l'unico mercato in Italia, mi verrebbe da dire in Europa, che ha l'ASL che controlla e certifica la qualità dei prodotti. Quindi se tu fai più zucchine le puoi scambiare col tuo vicino che fa più pomodori. E ancora, altra novità, si possono vendere, perché quello è un mercato, certo, ortofrutticolo, e già i produttori vendono, saranno piccole quantità, però anche questi... Quindi oltre che per sussistenza si può anche entrare nel circuito commerciale vero e proprio del mercato, perché diciamo che questi appezzamenti, questi orti urbani che il CAB di Bologna va a regalare praticamente, perché c'è un canone annuo, credo di 100 euro, vero? Una cosa 120 euro simbolica praticamente, minimo, sì? Diciamo sindacale per riuscire poi a mantenerli. E certo, tutto questo però, dicevamo, si inserisce all'interno del centro agroalimentare bolognese, che è una cosa, già un centro d'eccellenza. Intanto avete un impianto fotovoltaico tra i più grandi d'Europa, poi ci sono all'interno anche i laboratori con gli insegnanti dell'Università di Agraria pronti a dare delle dimostrazioni, quindi un insieme d'eccellenze. Beh, noi abbiamo cercato, diciamo, di rendere questo grande centro in crisi, come sono in crisi tutti i mercati ortofrutticoli, perché purtroppo consumiamo poca ortofrutta, che invece ci farebbe bene, per dire la verità, e abbiamo cercato di trasformarlo in un laboratorio della crescita sostenibile. L'impianto fotovoltaico produce 11 megawatt, è una centrale, mi verrebbe da dire, e la riusciamo anche a vendere all'esterno, oltre che a darla ai nostri grossisti, all'energia a un prezzo, diciamo, più basso. Poi abbiamo lavorato sull'acqua grezza, perché il pannello ci permette anche di raccogliere l'acqua e quindi laviamo le piattaforme con l'acqua. E poi ancora tutto il lavoro, diciamo, sulla sostenibilità dal punto di vista sociale, il recupero della frutta e della verdura che non si vende a fini benefici, quello che facciamo con la Sinus Market. Ma il vero grande progetto, l'abbiamo appena presentato, sarà quello di trasformare il CAB in un grande parco tematico dove far vedere proprio tutte le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane, che sono tante e che producono peraltro reddito. Basta vedere il dato sull'esportazione agroalimentare italiana. Sì, che sono in crescita e sono dei pochi dati col più davanti dell'economia italiana di questi tempi, e non è poco. Professor Segre, resti con noi, facciamo una pausa per il traffico, poi le chiediamo anche di raccontarci come sta andando avanti, lo citava lei, il Last Minute Market. Il professore è presidente di questa iniziativa che sta promuovendo anche la carta Spreco Zero nelle città italiane. Poco tempo fa ha aderito anche Roma. Facciamo il punto anche su questa iniziativa che vuole diminuire, se possibile azzerare, lo spreco nel cibo. Ecco, questa è un'altra cosa importante. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo con Si può fare. Stavamo parlando del CAB, il centro agroalimentare di Bologna, che regala 108 orti urbani ad altrettanti aspiranti giovani agricoltori. Il bando si è aperto ieri, potete andare sul sito. Com'è il sito del CAB, professor Segre? www.cab.it Benissimo. Il CAB che ambisce a diventare anche un parco tematico sulla tutta la filiera dell'agroalimentare e della sostenibilità, però dicevamo un'altra iniziativa che la vede protagonista è quella della carta spreco zero che sta promuovendo nelle città italiane. Quante sono le città che hanno firmato poco tempo fa? Ha aderito anche Roma. Roma e prima Firenze, poi Milano e tantissimi piccoli comuni, sono oltre 700 che cosa stanno firmando? Non un appello, non la solita petizione, ma in realtà la traduzione in italiano della risoluzione europea che abbiamo promosso 3 anni fa nel Parlamento, che è stata votata nel 2012, dove si chiede agli Stati membri di ridurre lo spreco del 50% proponendo una serie di misure. Poiché i tempi della commissione esecutiva, quella di Barroso, che poi deve metterla in pratica, non sono poi così veloci, ecco, su questo abbiamo fretta, l'abbiamo tradotto la carta la risoluzione in una carta con 10 punti che possono essere direttamente affidati alle nostre amministrazioni, ai nostri sindaci, che peraltro non godono di tante risorse, ma possono fare tante cose e in parte già le fanno. E quindi Roma, piuttosto che Firenze, Bologna, piccoli centri possono per esempio promuovere nelle mense pubbliche, pensiamo alle scuole dove si spreca una quantità di cibo enorme purtroppo, inserire nei capitolati degli appalti delle imprese che sarebbero ben contente il recupero obbligatorio del pasto non consumato, promuovere l'educazione alimentare, promuovere poi delle misure che possono diventare leggi a livello nazionale, per esempio sulle etichette che ci confondono un po', perché il preferibilmente entro è la notizia della Grecia che sembra che abbia fatto una cosa incredibile, che si possono vendere nei supermercati prodotti scaduti. In realtà non è vero, possono vendersi quei prodotti tipo la pasta, il prodotto secco, dove c'è una scadenza che in pratica viene decisa dal produttore. Noi non la capiamo questa scadenza, pensiamo che sia scaduto, in realtà si può mangiare tranquillamente e gettiamo via il prodotto. E lo spreco poi diventa rifiuto, costo e così via. Visto che gli incentivi sono sempre importanti in queste cose, perché lei diceva che le imprese che prendono gli appalti dai comuni per le mense, per esempio scolastiche, sarebbero ben contente di questa promozione del recupero del cibo che andrebbe sprecato? Ma le imprese sono pronte, le nostre imprese italiane sono pronte a così questa ampia categoria dell'economia verde, della sostenibilità, vanno accompagnate. È chiaro che se tu non rendi obbligatorio questo recupero, anche chi potrebbe farlo, perché non è così complicato, poi non lo fa perché, come dire, non è competitivo. Allora la politica avrebbe, diciamo, questo compito di accompagnare. Del resto in Italia si potrebbe fare quello che noi abbiamo proposto anni fa e che molti paesi europei stanno già facendo, purtroppo noi no, un piano nazionale contro lo spreco, per ridurre lo spreco alimentare dentro il piano nazionale rifiuti. Sono cose che si possono fare. E visto che voi, insomma, dall'alto anche del vostro osservatorio universitario e di Last Minute Market fate anche un sacco di elaborazioni, di calcoli, quanto avete calcolato, quanto potrebbe risparmiare l'Italia azzerando lo spreco di cibo, per esempio, perché anche questo in tempi di crisi economica non è una cosa da poco? Assolutamente. Allora, il dato economico, cioè quanto finisce nella spazzatura ancora buono, questo è lo spreco, perché rifiuto un'altra cosa. Mangi lo yogurt, butti via il vasetto e poi parliamo di raccolta differenziata, di plastica, eccetera. Ma se ci butti via il vasetto con dentro lo yogurt, quello è spreco. Beh, sommando tutti gli yogurt, l'ultimo dato che abbiamo elaborato con Waste Watcher, che è il nostro osservatorio sullo spreco alimentare, soprattutto quello domestico, vale qualcosa che si avvicina a 1.20-1.19 del PIL, sono 18 miliardi di euro. Peraltro, pensate, una cifra incredibile. Sono abbastanza efficienti, perché lo 0,96 si concentra a casa nostra e lì lo spreco non si può recuperare, mentre nelle imprese sì. Allora, diciamo, il governo avrebbe due compiti, quello di incentivare le imprese, come dicevamo prima, ma anche, ecco, aiutare i consumatori con programmi di educazione alimentare, per esempio nelle scuole, perché il nostro comportamento è un po' sbagliato, nel senso che forse compriamo un po' troppo, nonostante la crisi, e buttiamo via troppo presto e troppe cose. Va bene, grazie ancora per averci rinfrescato la memoria su tutte queste iniziative al professor Andrea Segre. In bocca al lupo con il CAB e con Last Minute Market. Alla prossima. Crepi, alla prossima. alla prossima. E noi adesso andiamo in discoteca in Liguria. Alcol is free, dicono i Cosa Mostra, questo gruppo greco, in questa canzone, ma la nuova guerra all'alcol arriva da Imperia. Vietati i ciupiti a un euro, le bibite di superalcolici a un euro, che impazzano tra i ragazzini e forse anche tra i minorenni, ed è questo il problema. Per mettere un freno a questa cosa qua è stato firmato un accordo, un protocollo tra il prefetto e l'associazione dei commercianti della provincia di Imperia, un nuovo divieto. Non è bello vivere nell'epoca dei divieti, d'altra parte le regole aiutano per esempio i bambini a crescere, forse possono aiutare anche gli adulti a vivere meglio. Cerchiamo di capirci qualcosa di più. Abbiamo convocato Franco Poggio, che è presidente provinciale del Sindacato Italiano Locali da Ballo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e grazie di questa possibilità che mi viene concessa. Un dovere da parte nostra, perché vogliamo capire appunto se questo nuovo divieto può aiutarci a vivere meglio. C'è il fenomeno anche dell'alcolismo forse, o comunque della esagerazione negli alcolici da parte dei giovanissimi. Voi siete partiti con questa iniziativa, vietare i ciupiti, perché cosa prevede l'accordo tra l'altro? Ma guardi, non è ovviamente limitato al prezzo basso dei ciupiti che si pratica in alcuni bar, è soprattutto un contrasto all'abuso dell'alcol che si sta diffondendo soprattutto fra i giovanissimi. Dunque, devo innanzitutto iniziare con un ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto, la dottoressa Fiammaspena, che è stata la promotrice di questa iniziativa, che è stata poi portata avanti grazie anche alla costanza e disponibilità della dottoressa Bruzzese. Sì, tra l'altro vogliamo specificare subito, riguarda i comuni di Imperia, Sanremo, Diano, Bordighera e Ventimiglia, così? Sì, praticamente tutti i comuni della provincia di Imperia. Perfetto. Dunque, io vorrei dire che noi abbiamo sempre avuto molta difficoltà a far sentire la nostra voce e a portare di fronte alle istituzioni i nostri problemi. Ecco, ma quali sono questi problemi, queste esagerazioni, questi abusi di alcol che voi segnalate, il punto di partenza di questa iniziativa? Guardi, il problema è fondamentale, che noi siamo sempre stati criminalizzati per questi problemi, anche perché la discoteca rappresenta sempre l'ultima meta, sì, di un pellegrinare notturno dei giovani e dei giovanissimi, che inizia con la pizzeria, poi va al bar, alla birreria e approda appunto come ultima meta nel locale notturno. Quindi certo, perché ormai le danze non iniziano prima del, non lo so, di che ora? Dell'una di notte? Ma diciamo che noi apriamo a mezzanotte, per cui i giovani uscendo alle 8, alle 9 di sera arrivano da noi che molto spesso sono già abbastanza, diciamo, sono già in là con la gradazione alcolica, questo vuol dire? Esatto, anche perché appunto nei bar la consumazione ha un prezzo molto molto inferiore alla discoteca, per cui è difficile che un giovane si ubriachi solo in discoteca. Beh, però non facciamo una questione solo adesso, l'iniziativa l'avete presa voi insieme al prefetto, però sicuramente non è una questione che riguarda solo i locali da ballo, solo le discoteche, riguarda tutti i locali. Nel protocollo sono inseriti tutti i pubblici esercizi. Però bar, ci dica grandi. Che cosa prevede questo protocollo? Questo protocollo prevede prima di tutto che ci sia una responsabilità di tutti i gestori a portare avanti queste iniziative, di non somministrare assolutamente né alcolici né superalcolici ai minori di 18 anni. Ecco, ma come si fa? Si deve chiedere la carta d'identità a questo punto? Esatto, esatto. I baristi devono chiedere la carta d'identità a tutti quelli che entrano nel bar, nel ristorante, nella discoteca. Insomma, non si può somministrare alcolici o superalcolici ai minori di 18 anni. Ma questa quindi questa proibizione che varrà appunto nei locali che aderiscono a questo protocollo nella provincia di Imperia e che appunto verrà messo in atto richiedendo la carta d'identità parte da un punto certo. Il punto certo è che c'è un fenomeno di abuso, di esagerazione. Beh, sicuramente un fenomeno denunciato da chi? Adesso non si può criminalizzare ovviamente tutta la categoria degli esercenti oppure tutti i giovani, però è un fenomeno che sta prendendo abbastanza piede, per cui c'è questa disponibilità nostra. Noi come titolari di locali da ballo sì. abbiamo contribuito offrendo 2 consumazioni analcoliche al prezzo di 1 alcolica, proprio per incentivare il consumo di bevande analcoliche e disincentivare il consumo di alcolici. Senta, ma ci dica perché può essere conveniente, può essere giusto vivere in un regime, diciamo così, di divieto in una situazione di forte regolamentazione come quella che proponete voi? Perché è positivo, può essere positivo o importante? Guardi, prima di tutto la positività dipende dalla legge, cioè per noi se ovviamente infrangiamo la legge veniamo sanzionati e veramente in maniera molto molto punitiva, già per una infrazione c'è la chiusura del locale, per cui noi siamo obbligati. Quindi lei dice è anche un discorso così di sopravvivenza, cioè dobbiamo stare nei limiti di quello che è previsto dalla legge e quindi sicuramente per non sgarrare. Ecco. Questo. Adesso poi si possono fare 1000 discorsi, 1000, se vuole una mia opinione personale, sì? Secondo me i 18 anni sono forse un po' un limite troppo alto, prima la legge prevedeva solo i 16 anni, adesso è stata portata proprio ultimamente, in questi ultimi sì? mesi a 18, però insomma diciamo la legge è così, purtroppo dobbiamo adeguarci alla legge, non possiamo certo andare contro. Ma non avete paura di perdere qualche cliente, qualche piccolo cliente evitando i ciupiti? Io penso di no, perché la discoteca è soprattutto un'esigenza di socializzazione, di incontro fra i giovani. Sì, ovviamente perderemo una parte di incasso perché uno è molto più incentivato a bere 2 o 3 consumazioni alcoliche che non 2 o 3 analcolici, anche perché ovviamente la consumazione alcolica si limita a pochi centimetri cubici, mentre la consumazione analcolica normalmente è di 30-33 centimetri cubici, quindi uno non è che si può affogare di Coca-Cola o di Fanta. Però insomma diciamo che noi aderiamo volentieri a questa iniziativa anche perché la finalità è andare incontro ai giovani, alle loro esigenze e alla loro salute, per cui noi partecipiamo. Va bene, va bene, staremo a vedere. Grazie intanto a Franco Poggio, presidente provinciale del SILB a Imperia, per averci raccontato di questa iniziativa e vedremo insomma se andrà tutto bene. Grazie intanto, grazie, buona giornata. Grazie ancora, buongiorno. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Abbiamo scelto The Best di Tina Turner perché ci sarà un migliore, anzi ci sarà una città migliore delle altre tra tutte le città italiane candidate a Capitale Europea della Cultura per il 2019. Si sa già che sarà l'Italia ad avere questo riconoscimento, non si sa quale sarà la città, però ne parliamo già adesso perché si deciderà tutto abbastanza in fretta. Vogliamo passare in rassegna tutte le città italiane che si stanno candidando a Capitale Europea della Cultura per il 2019, un modo anche per riconoscere e riscoprire queste città. Adesso oggi siamo a Urbino e salutiamo Raimondo Orsetti che è un dirigente della regione Marche. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Al servizio internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività promozionali, se ho detto tutto correttamente, cose, sì. E che si occupa anche di questo dossier di Urbino. Prima di tutto, visto che ce ne occupiamo noi, si può fare la prima volta oggi con voi, quali sono le regole per queste candidature? Innanzitutto le città che intendono candidarsi hanno l'obbligo di presentare su un apposito formulario la proposta, l'idea progettuale entro il 20 settembre. Poi successivamente queste città verranno ricevute ed ascoltate al Ministero dei Beni Culturali, perché sarà una commissione mista composta da 13 personalità del mondo della cultura, sì. 7 nominate, 7 straniere e 6 italiane, a valutare, a fare una prima selezione e a ridurre il numero di queste a 4, si pensa, 4 o 5. E poi successivamente verranno riaperte le procedure e sarà quella la fase decisiva, perché in quel momento verrà presentato proprio il progetto. Ci sarà lo sprint e finale. Questa commissione sceglierà la vincente e noi ci auguriamo sia Urbino. Di essere voi. Cosa porta a una città, a Urbino in questo caso, qualora doveste essere voi, questo riconoscimento? Porta direttamente soldi, investimenti, porta turisti? Che cosa vi aspettate? Ma guardi, sembrerà strano, ma alla fin fine saranno più gli obblighi e gli impegni anche di natura finanziaria che i benefici ovviamente saranno indiretti, perché nell'anno della capitale europea della cultura si pensa che sia per l'offerta culturale e turistica che verrà formulata, che per il richiamo che la città, sì, inevitabilmente avrà a livello europeo, ci sarà un maggiore afflusso di turisti. Sì, è meta di tanti turisti, e quindi diciamo che per l'economia del luogo e per l'economia del territorio circostante sarà sicuramente un beneficio. Però per quella data bisogna che le città cambino marcia, cambino anche sia il tipo di accoglienza, sia il tipo di servizi, e soprattutto ecco, si sintonizzino su una proposta concettuale che poi va declinata in mille aspetti. Bisogna questo arrivare preparati, ecco, a questa cosa qua, sì, quindi bisogna fare degli investimenti, diciamo, se c'è bisogno. Si pone l'asticella, sì, molto più in alto rispetto alla prassi abituale, e rispetto a quella ovviamente la città, il territorio, gli operatori, tutto quello che ruota attorno, insomma, si crea un'opportunità. Urbino avrà un'accelerazione violenta e si spera che sia anche è benefica per quanto riguarda, diciamo, sia il dato strutturale, quindi, sì, una diversa offerta dei servizi, una diversa offerta nell'accoglienza. Vabbè, un po' la logica, ecco, dei grandi eventi, anche se appunto, come ci spiegava lei, a volte sono più gli oneri inizialmente, almeno per arrivare preparati, e poi prevedendo decine e decine, sì, di milioni di euro di investimento. Ecco, però ci dica intanto quali sono i punti di forza di Urbino rispetto alle altre città candidate italiane, anche perché se noi leggiamo l'elenco, essendo in competizione, quindi con città non vuole scoprire le carte, però profondamente, perché hanno sì, ecco, anche loro una storia eccetera, però è indubbio che Urbino sia la patria, la culla del Rinascimento italiano, e che il Rinascimento muove da lì e poi si propaga a Firenze, si propaga per il resto d'Italia e del mondo, quindi è la ricerca di un nuovo umanesimo, è indagando le proprie radici che forse si tirano fuori i valori di una civiltà come quella occidentale, costretta nell'ultimo decennio a fare i conti con altre logiche. Sono, cioè, la buttate quasi sul filosofico. Economiche. Quindi diciamo che è un viaggio nelle proprie radici per riscoprire, sì, quei valori legati ad un nuovo umanesimo che può essere il punto di partenza per una rinascita non solo italiana ma anche europea. Quindi diciamo la mettete un po' anche sul piano filosofico con questa cosa dell'umanesimo, perché ricordiamolo, il centro storico tra l'altro di Urbino è già patrimonio dell'UNESCO per il suo impianto rinascimentale. Questo è un punto di partenza. Sì, il Palazzo di Federico rappresenta un unicum, credo, nella storia sia dell'arte che della civiltà occidentale, per come è stato concepito e per come poi fu luogo anche di incontro di tante eccellenze. Noi vogliamo riproporre quel modello, stiamo ragionando su una open court, su una nuova corte rinascimentale aperta, fare di Urbino un luogo permanente di confronto dei grandi della nostra civiltà e al tempo stesso anche una traduzione poi concreta del nuovo pensiero attraverso delle officine, attraverso delle botteghe di sperimentazione di cui andremo a dotarci, di cui il territorio di Urbino e quello delle Marche potranno essere sicuramente un humus, potranno rappresentare un humus fertile per questo. E in questa direzione a noi ha fatto grandissimo piacere che il nostro progetto sia stato sostenuto da subito, intanto da Jack Lang, il ministro della cultura e dell'educazione di Mitterrand, che oltre 10 anni lo è stato in Francia e che è stato l'ideatore delle giornate della capitale europea della cultura. Con lui più di 110 intellettuali, tra cui 3 premi Nobel, 4 premi Oscar, tanti intellettuali, eccetera, hanno sostengono questa candidatura. Senta Orsetti, ma per chiudere lo chiederemo un po' a tutte le città che si candidano. Il turismo culturale muove la gente, funziona ancora? Chi sono per esempio i turisti che vengono a Urbino normalmente? Italiani, stranieri, giovani, anziani? Guardi, intanto lei sa benissimo che Urbino è una città di piccole dimensioni, noi siamo la mascotte del gruppo, siamo con una città di 15.000 abitanti, ma che ha una popolazione universitaria di 30.000 e quindi già diciamo che c'è una presenza continua e costante tutto l'anno di giovani e di giovani anche stranieri, se ne conta quasi un 30% su questi. E il turismo culturale è sicuramente uno degli asset più importanti dell'offerta turistica della nostra regione. Noi abbiamo una regione, la più alta densità dei teatri storici, la più alta densità dei musei, quindi noi siamo un museo a cielo aperto e quindi diciamo Urbino si caratterizza come la porta d'ingresso di questo territorio. E da una regione prevalentemente manifatturiera come le Marche sono, investimento sull'asse cultura-turismo rappresenta sicuramente l'obiettivo strategico più importante di governo della nostra regione, perché puntiamo a creare il secondo volano economico di sviluppo della nostra regione. Cioè lei crede che questo modello possa funzionare anche a livello nazionale? Cioè si dice spesso che l'Italia dovrebbe puntare sul turismo e solo sul turismo. Voi che ne pensate? Io credo che noi siamo convintissimi che sia una strada obbligata quella di puntare, ma in maniera diversa, più razionale rispetto a come a quello che stiamo assistendo. Voglio dire, bisogna crederci, bisogna investire. Noi abbiamo un'offerta culturale e turistica straordinaria, qualsiasi delle 20 città che si candideranno, non so quante saranno alla fine, tutte potrebbero degnamente avere questo titolo di capitale europea della cultura, proprio per la ricchezza del patrimonio e dell'offerta culturale che abbiamo. Senta, un'ultima cosa così anche per scherzarci su, guardando l'elenco delle città che in passato hanno avuto questo riconoscimento capitale europea della cultura, ci sono Barcellona, Berlino, Dublino, non vi sentite un po' piccoli rispetto a questi giganti? Ma guardi, gran parte della popolazione europea vive in piccole città. Noi siamo i rappresentanti di una città piccola ma che ha nel suo DNA i connotati elevatissimi della grandezza, diciamo, di civiltà, e ci auguriamo che se la scelta verrà fatta obiettivamente, come lo sarà, noi possiamo avere le carte in regola per andare fino in fondo. Poi ci auguriamo che ci sia anche la possibilità per tutti di esprimersi, no? Quindi anche per voi. di non dare sempre la candidatura alla stessa regione, ogni tanto bisognerà pure cambiare, no? Va bene, grazie. Allora in bocca al lupo a Urbino e a Raimondo Orsetti, che per la regione Marche sta seguendo la candidatura della città capitale europea della cultura. Grazie ancora per essere stati con noi, in bocca al lupo. Grazie. Noi ci fermiamo qua, facciamo una pausa per il traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Mi piacerebbe Canada, una canzone intelligente che segue un filo logico importante e che sia piena di bei ragionamenti, insomma una canzone intelligente che spieghi un po' di tutto e un po' di niente. La canzone intelligente, dico chi è Renato, perché vogliamo parlarvi di una iniziativa intelligente che ha a che fare con la cultura. Noi sosteniamo da sempre che con la cultura si mangia, celebre la frase del ministro, ex ministro Tremonti, che sosteneva il contrario. Stavolta però scopriamo che la cultura ce la ritroviamo addirittura in mezzo ai buoni pasto. Parliamo di un progetto che punta a valorizzare musei e centri culturali. Di che si tratta? Si intitola Qui Cultura, è un progetto ideato e lanciato da Qui Group, leader italiano nel settore dei buoni pasto, e noi abbiamo convocato l'amministrazione delegato di Welfare Company, Giovanni Scanzani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Una iniziativa, di che si tratta? Da quello che abbiamo capito, voi proponete di distribuire dei ticket con degli sconti per musei, per esempio, proprio come si fa con i buoni pasto. Sì, diciamo qui che è la società, il gruppo che controlla Welfare Company, che è un'azienda specializzata in iniziative e servizi destinati, diciamo, al welfare aziendale, rappresenta una realtà che serve ogni giorno circa 600.000 persone con i propri titoli di servizio, che sono tipicamente buoni pasto, voucher acquisto, diciamo titoli che servono ad accedere a servizi che le aziende mettono a disposizione dei propri dipendenti. Questi titoli sono raccolti in carnet, un carnet come fosse un blocchetto di piccoli assegni, e questi carnet possono contenere dei coupon. Certo. Questa vasta, diciamo, questo importante numero di persone, questo vasto numero di benefici finali dei nostri servizi viene raggiunto anche da un coupon staccato, diciamo, staccabile dal carnet dei titoli di cui sono in possesso, e un coupon che dà diritto a degli sconti, sì, al, diciamo, riduzioni sul biglietto d'ingresso, i teatri e realtà culturali che sono entrate nel nostro network, o dà diritto ad uno sconto al bookshop. Quindi per l'acquisto dei cataloghi, ad esempio. Quindi è l'azienda che decide di offrire ai suoi dipendenti questo benefit, l'azienda, facendo una convenzione, credo poi sostanzialmente pagando la differenza o qualcosa del genere. No, in una logica, diciamo, di promozione, di plus di servizio rispetto, diciamo, alla nostra offerta di servizi, evidentemente, questo è un completamento, è un benefit ulteriore che noi diamo ai nostri clienti finali, che sono i dipendenti delle aziende, nostri clienti, aziende private ed aziende pubbliche. Quindi qui avremo dipendenti privati e dipendenti pubblici che troveranno nel carnet dei titoli di servizio che utilizzano, che ripeto possono essere i buoni pasto di Qui Group, possono essere i voucher acquisto di Welfare Company, troveranno questo coupon, così come ne trovano anche altri che danno diritto a dei benefici. In questo caso il coupon dà diritto appunto a questa riduzione. Quindi le aziende non c'entrano nulla, siete voi che offrite direttamente ai clienti finali? No, cioè... ovviamente noi offriamo il coupon, però dietro alla costruzione di una di tante partnership, quante sono le decine e decine di realtà culturali che noi abbiamo diciamo aggregate a questo network della cultura che abbiamo ribattezzato Qui Cultura, per il semplice fatto che in questo modo abbiamo richiamato il brand principale del nostro gruppo. Sì, no, dicevo, non c'entrano niente le aziende i cui dipendenti ricevono i ticket, perché siete voi a fare d'accordo, se ho capito bene, direttamente con i musei, i centri culturali, eccetera. Chi sono queste realtà culturali che stanno aderendo o che hanno già aderito a questa iniziativa? Ma tra questi partner, noi sono, ovviamente non tutti, ma ne posso ricordare qualcuno di importante. A Milano c'è il Padiglione d'Arte Contemporanea PAC, c'è a Palermo Palazzo Branciforte, la Galleria d'Arte Moderna a Torino, il FAI, abbiamo fatto una importante col Fondo Ambiente Italiano che ha messo a disposizione del nostro network una serie di realtà che sono da loro gestite, abbiamo la Domus Romana, il Palazzo Valentini, la Fondazione Torino Musei. A Milano hanno aderito anche i teatri, il Teatro Nuovo, il Teatro Franco Parenti, per fare due nomi, e qui stiamo costruendo una bella rete anche nel settore cosiddetto dell'edutainment, quindi del divertimento che ha una finalità di istruttiva o comunque culturale, come per esempio sono i parchi a tema. Abbiamo un accordo con Mondo Parchi, che è una realtà estremamente estremamente vasta in Italia, molto, molto distribuita sul territorio. Benissimo, grazie allora a Giovanni Scanzani, amministratore delegato di Welfare Company, che ci ha raccontato questa iniziativa qui Cultura, ripetiamo, ticket con sconti e promozioni per delle iniziative, musei, centri culturali, che insomma i dipendenti delle aziende che aderiranno si ritroveranno in mezzo ai buoni pasto. Un'iniziativa intelligente per promuovere anche la cultura una volta tanto. È tutto per la puntata di oggi. Io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha scritto assieme a me il programma, Roberto Scaltritti in regia. Ci risentiamo con Si può fare sabato prossimo a mezzogiorno. Buona domenica anche da Alessio Maurizi.